Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'appuntamento con Economia in Europa si occupa dell'aumento dei tassi di interesse nell'Eurozona, della formalizzazione del piano di salvataggio del Portogallo da parte della Commissione Europea. Parleremo poi delle quotazioni delle materie prime, sempre in forte rialzo a partire dall'oro che continua a ritoccare record su record. Dunque, come nelle attese giovedì scorso, la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso di riferimento dell'Eurozona portandolo all'1,25%. Sentiamo l'annuncio della misura da parte del presidente della BCE, Jean-Claude Trichet. In seguito all'analisi della situazione economica, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% dopo averli lasciati invariati per 2 anni ai minimi storici. Con la decisione unanime presa oggi di alzare il costo del denaro, la Banca Centrale Europea non ha contestualmente deciso che si tratta del primo di una serie di aumenti dei tassi. La scelta intrapresa oggi è volta a garantire e assicurare la stabilità dei prezzi a medio termine. La manovra odierna contribuirà a tenere sotto controllo le generali attese di inflazione tra i cittadini. L'aumento dei tassi in Europa ha l'obiettivo di mettere un freno all'inflazione, tornata a crescere oltre l'obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea a causa della nuova recente fiammata del petrolio. Sentiamo Trichet sul tema inflazione. È essenziale che il recente rialzo dei prezzi, in particolare quelli energetici, non generi rialzi generalizzati sul medio termine. La BCE dovrà monitorare molto attentamente tutti gli sviluppi della situazione economica a partire dall'inflazione. L'obiettivo ufficiale dell'Eurotower è tenere la crescita annua dei prezzi al consumo inferiore ma prossima al 2%. Mantenere ancorate le aspettative di inflazione è un beneficio per tutti i paesi dell'Eurozona e può contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Continueremo a seguire con attenzione la situazione. I rischi al ribasso dipendono anche da eventuali rialzi nei prezzi delle materie prime, in particolare in seguito alle attuali tensioni geopolitiche. L'aumento dell'inflazione nei primi mesi del 2011 riflette infatti largamente il rialzo dei prezzi delle commodity. Il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, è intervenuto anche sul tema della crisi degli stati sovrani europei, invitando quelli più a rischio a correggere le politiche di bilancio. Trichet parte dal Portogallo. La Banca Centrale Europea ha incoraggiato le autorità portoghesi a chiedere aiuto esterno perché è ciò che necessita la situazione oggi in seguito a tutto ciò che è accaduto in precedenza nel paese. Se l'Europa viene presa come un insieme unico, abbiamo un'economia integrata, c'è un mercato unico, una sola valuta, una situazione di equilibrio. Allo stesso tempo ci sono diversi singoli paesi nella zona euro che devono rivedere le proprie posizioni di bilancio e correggere le proprie condizioni. In particolare per quanto riguarda l'aspetto fiscale, ma non solo quello, anche le politiche economiche in generale vanno riviste. È estremamente importante per tutti proseguire nella linea tracciata. Sono stati varati piani in alcuni paesi e a nostro avviso questi piani devono essere applicati. E rimaniamo proprio al Portogallo perché venerdì scorso l'Eurogruppo ha accolto la richiesta di assistenza finanziaria avanzata dal governo di Lisbona. Il Portogallo è il terzo paese europeo dopo Grecia ed Irlanda a ricorrere agli aiuti finanziari di Bruxelles. Ne hanno parlato i ministri europei che si sono riuniti a Godollo nei pressi di Budapest per i consueti appuntamenti di Eurogruppo ed Ecofin. Il piano di salvataggio per il Portogallo sarà pronto per metà maggio, lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, sottolineando come gli aiuti dovranno essere legati a severe condizioni e come servirà anche un ampio consenso da parte dei partiti dell'opposizione portoghese. Sentiamo Juncker. La preparazione per mettere a punto il piano partirà immediatamente, con l'obiettivo di raggiungere un accordo trasversale. Il piano potrà in questo modo essere adottato a metà maggio e dovrà essere attuato rapidamente dopo la formazione del nuovo governo. Il piano sarà basato su 3 pilastri. Innanzitutto un ambizioso programma di aggiustamento di bilancio per ripristinare la sostenibilità dei conti pubblici. Secondo, riforme che puntino a migliorare la crescita e la competitività rimuovendo la rigidità nei mercati del lavoro e della produzione. Si dovrà promuovere invece l'innovazione e consentire uno sviluppo economico salvaguardando i cittadini. Un punto, quest'ultimo, che dovrebbe includere un ambizioso programma di privatizzazione. Infine, misure per mantenere la liquidità e la solvibilità del settore finanziario. Il pacchetto di misure annunciato dalle autorità portoghesi l'11 marzo è un punto di partenza in questa direzione. Secondo le stime preliminari della Commissione europea, il piano di aiuti al Portogallo dovrebbe ammontare a circa 80 miliardi di euro, lo ha indicato il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Allo stato attuale, in base alle prime stime molto preliminari, possiamo dire che il programma di aiuti al Portogallo avrà un ammontare di circa 80 miliardi di euro. Tale cifra dipenderà naturalmente da diversi fattori. Ancora non c'è una valutazione precisa sulle necessità finanziarie. Quel che è certo è che il prestito che sarà concordato sarà sufficiente a provvedere al bisogno finanziario del governo e di liquidità e solvibilità delle banche per i prossimi 2 anni. Ma sarà davvero l'ultimo dei salvataggi quello effettuato sul Portogallo? Sentiamo il commento del giornalista Antonio Poglio Salimbeni. Questo per la verità nessuno lo può dire di certo, sia da parte spagnola, come ovvio, sia da parte degli altri di altri ministri, Juncker, il presidente del loro gruppo, Trichet, eccetera, si tende a dire non tanto che questa è l'ultima volta, quanto il fatto che adesso con il Portogallo, dopo l'Irlanda e dopo la Grecia, si completa il quadro di interventi di dei paesi periferici dell'Eurozona sotto il colpo dei mercati. È più che un'affermazione, è una speranza, un augurio che non si tratti, diciamo, soltanto del terzo intervento anticamera di un quarto e di un quinto. Ma questo non è materia di cui si parla esplicitamente. No, anche perché il quarto e il quinto, lo dico in maniera scaramantica, sì, riguarderebbe paesi un po' più grandi dell'Irlanda, della Grecia e del Portogallo, perché insomma è chiaro che a questo punto la prossima frontiera si sposta verso la Spagna, ma non ci sono in questo momento segnali se non sulle casse di risparmio locali spagnole. E come è stata giudicata questa richiesta del Portogallo, Antonio, arrivata, diciamo, alla fine, perché insomma è mesi che ne parliamo, il governo portoghese ha opposto tutta la resistenza che poteva prima di chiedere aiuto? Adesso che il Portogallo ha chiesto finalmente l'aiuto, tutti dicono avrebbero potuto chiederlo prima, soltanto che prima nessuno lo aveva detto esplicitamente. Diciamo, sto parlando, i soggetti in questo caso sono Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, la Francia, la Germania e quant'altri. Comunque grande soddisfazione perché alla fine il Portogallo si è deciso a compiere la mossa. Certo che il premier portoghese, il governo portoghese, governo di minoranza, ricordiamolo, è alla vigilia delle elezioni, si voterà il 5 giugno, destinato alla sconfitta politica, almeno secondo tutte le valutazioni, le attese, sì. Avrebbe potuto compiere questa mossa 2 mesi prima, senza avvelenare, senza nutrire ancora di più la sfiducia dei mercati. Economia in Europa oggi è partita proprio dall'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea per tornare a frenare l'inflazione, fatta ripartire dai prezzi delle commodities. E infatti le quotazioni delle materie prime continuano a correre. Negli ultimi giorni c'è stato un nuovo ritocco del record per l'oro, salito a 1478,18 dollari l'oncia. Nell'ultimo anno l'oro ha guadagnato circa il 30%, quotazioni top anche per l'argento a 41,52 dollari l'oncia, il livello più alto dal 1980. Quali le previsioni per il settore? Sentiamo Roberto Binetti, esperto di commodities. All'inizio dell'anno, quando il metallo era 1400 dollari l'oncia, abbiamo ipotizzato un appuntamento invernale a fine anno a 1500 dollari. Invece è un appuntamento primaverile, siamo già arrivati ai 1475. Ma vede, se mi permette, io condivido molto un articolo che voi avete pubblicato sabato dalla sua collega Sissi Bellomo, che è responsabile delle materie prime, un articolo molto centrato, con le motivazioni giuste di questi rialzi, pertanto molta liquidità a disposizione di grandi investitori, strumenti finanziari a disposizione molto rischio che danno più mal di testa che tranquillità, e poi sempre i soliti interessi della Cina che vuole arrivare entro breve tempo a 10.000 tonnellate di oro fisico e gli acquisti notevoli dalla parte dell'India per le proprie aziende orafe. Sicuramente l'oro è un po' un investimento morale, sicuramente noi cerchiamo di portarlo su un binario della razionalità, ma di fatto segue molto le preoccupazioni, i rischi, le tensioni finanziarie mondiali. Investimento morale, ha detto? Umorale. Perché l'investimento morale... morale non c'è più nulla di morale ormai in finanza. No, vabbè, l'investimento morale è quello che non pensa solo a se stesso, diciamo. Che... No, umorale, nel senso che quando ci sono delle notizie preoccupanti, gli investitori cercano di andare su un bene rifugio d'eccellenza che è l'oro, anche se noi non lo consideriamo più solo uno strumento, cioè un bene rifugio, ma proprio uno strumento di investimento. Noi ipotizziamo 1.600, 1.700 entro un anno e mezzo, cioè da 33 euro al grammo lo vediamo benissimo entro breve tempo a 40, 45, anche con delle punte da 50, per le motivazioni che aveva appunto precisato anche la Sissi Bellomo, sono questi i punti fondamentali di questi rialzi. Noi consigliamo ancora un investimento in oro fisico, cioè veramente non perché vogliamo portare plusvalenza alla Confimes, ma perché ci crediamo, insomma, non ci sono altre posizioni. Ma perché dice 33 dollari al grammo? Perché oggi costa un grammo d'oro costa 33 euro. E con questo per Economia in Europa è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.